America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. So ladies and gentlemen, all new from the inside out, the Chrysler 200 sedan. Bene, una delle presentazioni, in questo caso la presentazione della Chrysler 200 all'Auto Show di Detroit. Sono a New York, ma vi racconto quello che è successo nella capitale dell'auto americana, dove ieri mattina si è inaugurato in anteprima, diciamo così, il salone dell'auto. Sarà aperto fino al 26 gennaio, il 13 e il 14, cioè ieri e oggi, sono delle preview, delle anteprime per la stampa. E resta uno dei più grandi saloni del mondo, insomma ci sono 200 espositori, solo di nuovi modelli ne sono stati presentati 71, e 61 di questi per il mercato globale, 5.000 giornalisti che arrivano da 62 paesi diversi, e ci sarà un flusso di visitatori enormi, perché poi alla fine l'America ha una storia d'amore con l'auto, come mi disse un vicepresidente della General Motors tanti anni fa, quando le cose andavano male, dice: no, ma le cose torneranno a migliorare, perché gli americani, quando sono seduti nella loro automobile con la musica al massimo volume, questo straordinario panorama che si apre davanti agli occhi, sanno di avere una storia d'amore con l'auto. Auto che in effetti si è ripresa, devo dire, le tre grandi stanno andando piuttosto bene. Abbiamo avuto un annuncio: Joe Biden, il vicepresidente, sarà a Detroit proprio nei prossimi giorni per uno dei progetti più importanti di Barack Obama dal punto di vista della politica industriale. Ricordiamolo, quando ci fu la crisi del 2007-2009, beh, sembrava che il settore auto a Detroit potesse davvero sparire. Ci fu poi un intervento molto diretto del governo americano, e da lì, come sappiamo, c'è stata la ripresa non soltanto di General Motors, ma anche di Chrysler con l'intervento della Fiat. Vi dicevo, la Chrysler ha presentato una nuova vettura, una mid-size, la Chrysler 200, che è una curiosità, che è la piattaforma utilizzata e la nota C-Wide, che è derivata dall'Alfa Romeo Giulietta, quindi garantisce una tenuta sportiva, dinamica, e quindi questo è un esempio di come poi il matrimonio tra Fiat e Chrysler sta dando dei risultati interessanti. Beh, di quali altri modelli posso parlarvi? Beh, intanto la Corvette, cioè la nuova Corvette molto bella, straordinariamente aggressiva, diversa rispetto al taglio originale, e una macchina che entra più nella categoria delle super sportive, larga, piatta, non affusolata come era la tradizionale Corvette. C'è la Mercedes, ha presentato tre modelli, la classe C, la classe GLA 45 AMG, soprattutto la classe S, la S600, che è l'ammiraglia, un design molto slick quello che abbiamo visto, una macchina molto bella, e già era bella quella prima, e qui cosa fanno? Beh, ci sono nuovi perfezionamenti tecnologici, insomma, entrando dentro questa macchina si ha l'impressione di guidare nel silenzio più assoluto, non si sente il motore, non si sentono rumori esterni, tutto è ovattato, insomma, la qualità poi la si vede in questi piccoli dettagli. Infine, beh, la Porsche 911 targa, torna la targa, ha una caratteristica, un tettuccio che si apre in 20 secondi e si nasconde immediatamente sotto nel retro, cioè tutto un movimento meccanico straordinario. Non posso non parlarvi di un paio di giapponesi, c'è la Toyota FT1 Concept, super aggressiva, super sportiva, macchina molto bella, la nuova Infiniti. Ma in questo salone uno degli elementi dominanti di ieri è stata una chiacchierata che il presidente di Chrysler, che ha appena chiuso questo accordo importante, fondamentale, di fusione tra Chrysler e Fiat, ha rilasciato ai giornalisti. Quali sono le novità principali? Intanto che entro la fine dell'anno probabilmente si andrà in borsa, Fiat Chrysler andranno in borsa insieme, ma inutile che ve lo racconti, sentiamo direttamente Marchionne. Una volta che è completato l'acquisto, spero, come ripeto, in settimana, la Fiat sarà l'azionista del 100% del capitale della Chrysler, e quindi in quel senso là la fusione è già avvenuta. Poi c'è una domanda di dove posizioniamo la Fiat Chrysler con questa configurazione legale, cioè essendo già l'azionista del 100% del capitale della Chrysler, quindi e perciò ho ripetuto anche il fatto che non ci sono, sono previste emissioni di azioni da parte della, né della Fiat né della Chrysler, quindi rimarrà un'entità nel suo insieme. Dove l'andiamo a posizionare per fabbisogni finanziari, sviluppo strategico, eccetera, è un discorso da farsi con il Consiglio, che come ripeto faremo alla fine di gennaio, quindi se ne parlerà allora in dettaglio, spero. Ecco, quel che interessa di Marchionne è anche sapere cosa pensa dell'Italia. Io devo dire, ha una visione, per quel che l'ho sentito sempre, molto chiara. Sentiamolo. Uno dei problemi fondamentali che lo stiamo vivendo in Italia in maniera particolare è la mancanza di certezza sul futuro, sulle condizioni che andranno a governare quell'economia là nel futuro. Quindi parliamo di un mercato che sta a 1.300.000 vetture, quindi parliamo del 50% di quello che è stato a livello massimo negli scorsi 10 anni, e ci vorrà molto tempo, credo, fino a quando questo mercato non recuperi. Non credo che il 2014 sia il vero anno della ripresa del mercato europeo. Sono sicuro che avrà un segno positivo associato con i numeri, ma non sarà un numero straordinario. Quindi dovremo guardare oltre il 2014 per vedere i segnali di una ripresa più duratura, più fondamentale. Ecco, su Marchionne ci sono state incertezze, resta, non resta. È intervenuto direttamente John Elkann sul futuro di Marchionne in Chrysler Fiat. Quello di cui sono abbastanza sicuro è che il vertice della nuova società sarà composto dal dottor Marchionne e dal sottoscritto. Dunque siate tranquillizzati, non cambiamo presidente o amministratore delegato. Come vedrete, il piano di maggio è un piano che va avanti per 3 anni, e non c'è dubbio, e questo ne abbiamo discusso a lungo con Sergio, che questo piano sarà portato avanti da lui. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di auto, mi viene in mente una canzone straordinaria, bellissima. Janis Joplin, Mercedes Benz. Sentitela, ascoltatela, perché è piena di umore e non si parla soltanto di macchine. Che tutto, Simone, ti restituisco la linea. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.